Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. Presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte. Abbiamo subito cominciato con una sigla che non voleva partire. Va bene così. Questa è la nostra 123esima trasmissione. Oggi qui in studio siamo io, Caterina, e con me c'è Rosina che sta litigando come al solito con il microfono. Dunque, in questa trasmissione cercheremo, come vi avevo anticipato la settimana scorsa, di far conoscere la scrittrice americana Kate Millett. Per farlo utilizzeremo anche parte delle registrazioni fatte durante il seminario tenuto da Maria Rosa Cotrufelli presso il Centro Femminista Separatista lo scorso 15 maggio. Seminario tra l'altro molto interessante, per il quale ringraziamo ancora una volta per la sua disponibilità Maria Rosa. Oggi, nella nostra consueta rubrica degli appuntamenti, daremo molto spazio al Gay Pride di Bari. Inoltre vi ricorderemo della nostra iniziativa di Les Bollywood e, se rimarrà ancora del tempo, parleremo dell'incredibile, definiamolo così, incredibile arresto effettuato nel Texas a scapito di due omosessuali, che la dice lunga sulla democrazia americana. Come sempre ci faranno da intervallo e da accompagnamento le splendide voci delle cantanti che settimanalmente scegliamo per voi. Vi lascio quindi subito in loro compagnia e ascoltiamo insieme il duo Capercaglie si beda, un duo composto da una donna scozzese e da una donna della Guinea. Il brano, molto suggestivo per il ritmo che offre, si intitola In Exile. Io coe cari ci vuole levare, Yeah. E allora buonasera a tutte, come avete sentito da Caterina, stasera parleremo di Kate Millett, una scrittrice, saggista e artista americana. Vi diamo un po' di informazioni, pochissime informazioni sulla sua biografia, poi sentiremo dalla voce di Maria Rosa Cutrufelli qualcosa di più importante. Dunque, Kate Millett nasce nel 1937 a St. Paul in Minnesota e studia nell'Università di Minnesota a St. Hilda, a Oxford e all'Università di Columbia a New York. Nel 61 si è trasferita in Giappone, dove ha sposato nel 1965 lo scultore Fumio Yoshimura, dal quale si è separata nel 1970. Proprio in quell'anno ha pubblicato forse il suo libro più importante, La politica del sesso. Nel 1973 ha pubblicato un saggio sulla prostituzione, nel 1974 In volo, che è praticamente la sua autobiografia, e nel 1977 Sita. Dunque è stata molto attiva nella politica femminista dei tardi anni 60 e negli anni 70 e nel 66 è diventata membro del NAU. Nel 79 si è recata in Iran per lavorare ai diritti delle donne, ma il governo l'ha fatta espellere dal paese, dando prova naturalmente di consueta democrazia. Oh mannaggia! Nel 1994 ha pubblicato La politica della crudeltà. Dunque la Millett rimane una delle figure più importanti della cultura contemporanea e sicuramente una delle maggiori figure del movimento delle donne, delle femministe e delle lesbiche. E poi, ecco, la narrazione del lesbismo. Appunto, la Millett passa dunque dalla politica del sesso a una narrazione della sessualità. E la cosa importante è che mentre appunto nella politica del sesso lei non nomina il lesbismo, quando passa alla narrazione della sessualità non solo nomina il lesbismo, ma ne fa appunto, diciamo che la narrazione della sessualità è la narrazione del lesbismo. E quindi non lo fa in maniera teorica, perché appunto La politica del sesso è un libro teorico, ma lo fa in una maniera esperienziale, cioè in una forma di narrazione basata sull'esperienza. E questa è una mossa che spiazza tutti quanti. Perché appunto c'erano prima di lei tante narrazioni del lesbismo, ma erano narrazioni che molto spesso prendevano la forma tradizionale, prendevano la forma tradizionale del romanzo, no? Mentre invece lei fa una scelta di tipo diverso, diciamo salta a piè pari questa forma tradizionale e si aggancia direttamente alla politica dell'esperienza. La sua narrazione è basata sulla politica dell'esperienza, che però vuole, pretende, si ammanta di uno statuto di letterarietà, cioè lei non rinuncia alla letterarietà, rinuncia a delle forme particolari di narrazione che sono le forme tradizionali del romanzo. E la critica, quando appunto uscirono questi suoi testi, si chiese che cosa fossero, perché appunto lei li aveva spiazzati. Questo spiazzamento in realtà non le giovò molto sul momento, perché il problema è che quando i critici letterari o comunque coloro che si occupano di libri e quando ne devono parlare sui giornali o nelle università o ovunque, hanno in qualche modo bisogno, tendono a cioè vogliono essere inquadrati, vogliono riconoscere quello che hanno di fronte. Se non lo riconoscono, molto spesso non affrontano la fatica dell'interpretazione, li mettono da parte. E infatti i testi narrativi della Millet vennero in qualche modo messi da parte, perché non si sapeva che cosa fossero. Le lettrici femministe e lesbiche in particolare vi si riconobbero in qualche modo, non rinnegarono questa sua operazione, ma in qualche modo anche questa lettura rimase in secondo piano, perché in fondo anche loro, anche le femministe lesbiche, che non è che sono dei marziani, no, anche loro in qualche modo non fecero come non fecero i critici questa fatica di reinterpretare, almeno non la fecero sul momento. Sono dovuti passare 30 anni più o meno perché la Kate Millett ricevesse degli attestati molto significativi anche rispetto a questa sua produzione. Una produzione che appunto ha la densità magmatica del diario, ma che sono molto simili a quello che io chiamavo racconto di autocoscienza. Cioè lei che cosa ha fatto? La scrittura di questi testi, stranamente, cioè, poco riconoscibile per i critici, e questo d'accordo, ma stranamente non riconosciuta anche dalle donne che pure avevano praticato l'autocoscienza, la sua scrittura è una scrittura autocoscienziale, cioè non sono dei diari, non sono dei romanzi, abbiamo detto, ma non sono neanche dei veri e propri diari, sono dei racconti fatti in autocoscienza. Allora, questo per quanto riguarda la narrazione del lesbismo. Inoltre, una delle caratteristiche fondamentali ed innovative dell'opera di Kate Millett è il fatto che i suoi libri sono appunto delle narrazioni in presa diretta, così come abbiamo sentito da Maria Rosa, e quindi sono una sorta di documentario della sua vita. E con la Millett nasce quindi una modalità di scrittura nuova, diciamo un passaggio dal saggio ad un modello innovativo, appunto. E Millett scrive e il senso del suo scrivere trova riscontro e contemporaneamente la necessaria autorizzazione a scrivere nel fatto che sarà letto da un pubblico di lettori e generico, ma soprattutto da un pubblico di lettrici. Quindi con lei nasce, come sentiremo appunto dalla voce di Maria Rosa Cutrufelli, la lettrice femminista, cioè quella lettrice interessata a decostruire la struttura patriarcale e a costruire invece un nuovo punto di vista sul mondo e sulla storia. Ma sentiamo Maria Rosa. Di che cosa parla la Millett in questi libri? Parla molto di sesso, parla molto di amore e a volte, insomma, leggendo mi sono chiesta se parla di sesso o di amore, perché in realtà la sua è una ricerca dei confini, del confine che attraversa l'amore e il sesso e anche l'amicizia, cioè in realtà tutti questi suoi libri, tutte queste sue narrazioni di vita lesbica sono una costante ricerca del confine che passa attraverso l'amore, il sesso e l'amicizia. Pagina 197. Dice un'altra parte del mio cervello si sta chiedendo perché non voglio Fosta. Cioè, non è una lesbica mascolina, è solo una donna grossa e matronale, così grassa che ha bisogno di una sedia speciale. È sempre un problema alle riunioni. Voglio sapere perché Fosta è così grassa. Sono stata grassa anch'io, ma mai così. Chiaramente è lei che lo vuole, che si infligge questa punizione. E perché non riesco a desiderare tutte le donne, tutte le sorelle, tutte le lesbiche? Non è possibile, non ho tempo. La vita non è un'orgia. Soltanto un rapporto giustifica il piacere sessuale. Alla fine si tratta di amicizia. E l'amicizia è una cosa seria, richiede un grosso impegno. Ma se ami i tuoi amici, com'è che non vuoi andare a letto con tutti loro? Che cos'è la sensualità? Qual è il confine fra un contatto fisico gratificante e la calda corrente genitale fra le gambe? Ecco, sia in volo che in sita, la Millet questo fa, esplora, cioè cerca di rispondere a questi perché. Naturalmente, dato che appunto la vita è impresa diretta, lei senza alcun, lei non pone mai dei veli fra sé e le altre, fra sé e gli altri, fra sé e se stessa. Ed è una caratteristica molto particolare di Millet, perché, come vi dirò dopo, altre donne che hanno fatto operazioni analoghe hanno invece sentito il bisogno nello scrivere di mettere comunque dei veli, quindi di scrivere sì in autocoscienza, ma ad esempio non cambiando i nomi delle persone coinvolte. La Kate Millet, e per questo si è attirata anche molti odi, molte polemiche, non può farlo, perché smentirebbe tutto il suo progetto che è artistico e che è politico, non può farlo. E quindi parla con molta schiettezza delle sue innamorate, delle sue amanti e ad esempio della paura, del perché ha paura molto spesso dell'amore, dell'essere innamorata, e che poi questa paura nasce dallo spettro che ogni tanto salta fuori dei ruoli. Lo spettro dei ruoli fra donne è un qualche cosa che lei nomina spesso. E anche qui andiamo a vedere. Ma prima io preparo la colazione, cioè siamo dopo una notte d'amore con la sua amante di turno. Ma prima io preparo la colazione, uova strapazzate con la panna, e tengo una conferenza sulla necessità di mangiar bene. Pittori e scultori sanno mangiare. È una fortuna che tu sia già sposata, altrimenti ti sposerei io per queste uova strapazzate, mi dice. E io mi sento subito a disagio davanti allo spettro dei ruoli. E chi sarebbe che cosa, le chiedo. Lascia perdere, ho individuato il problema, adesso vado a casa e lo affronto. Ma è ancora nei suoi occhi la paura, quando mi saluta imbarazzata e scappa giù per le scale, preoccupatissima di recuperare la sua indipendenza, entrambe terrorizzate di essere troppo innamorate. Perché la gente deve sempre rovinare tutto? È colpa mia, sono più vecchia, non devo alzarmi per andare a lavorare, così non va bene. E il nostro destino è quello di fare ancora più casino di tutti gli altri, di rovinare sempre tutto? Questo appunto, lo spettro dei ruoli, è anch'esso qualcosa che percorre tutte le sue narrazioni di vita lesbica. E allora ringraziamo Maria Rosa Cutrufelli per aver tenuto questo seminario al Buon Pastore, da cui abbiamo tratto questa registrazione. E dopo questo argomento, che altro potremmo sentire se non Céline Dion, con una canzone che ha un titolo che è tutto un programma, Seduce Me, mi seduce. Everything you are everything you'll be. That's just the current of love, so deep in me. Every sigh in the night, every tear that you cry, seduces me. And all that I am, and all that I'll be, means nothing at all if you can't be with me. Your most innocent guess, or your sweetest caress, seduces me. I don't care about tomorrow. I've given up on yesterday. Everything in this world, every voice in the night, every little thing of beauty shining through in your eyes, and all that is you becomes part of me too, 'cause all you do seduces me. Appuntamenti. Da fastidio la cuffia, levati. Vai. E allora, come di consueto, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, una trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Dunque, potete contattarci parlando con noi o facendoci arrivare i vostri graditissimi trillini qui in radio allo 06491750 fino alle 22, oppure siamo naturalmente reperibili alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista del Buon Pastore ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Questo è un telefono fax con segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. E vi ricordiamo naturalmente anche la nostra email contatti@clrbp.it e il nostro sito web www.clrbp.it. Questa settimana, per il consueto appuntamento del giovedì Les Bollywood, proietteremo la seconda parte di Tipping the Velvet. Si tratta di un narrativo inglese e non spaventatevi per aver sentito che quella di giovedì sarà la seconda parte, perché in realtà il filmato è realizzato da una serie di episodi, per cui anche se non avete visto la prima parte, potete benissimo vedere la seconda. Ve la consigliamo perché è molto molto molto carina. Chi ci ha dato retta la settimana scorsa venendo a vedere la prima parte è rimasta soddisfatta e contenta. Inoltre, per quelle che ci saranno, abbiamo preparato una piccola sorpresa. Ricordo che l'ingresso è riservato alle sole donne e che la proiezione inizierà alle ore 21:30. E allora siamo naturalmente a giugno, luglio, che mese è? Siamo a giugno, giugno. Quindi si avvicina paurosamente a grandi passi il notissimo, ormai a livello mondiale, Gay Pride. Dunque, come sempre, ci sarà anche quest'anno un Gay Pride nazionale organizzato dall'ARCI. Che però è già stato ampiamente pubblicizzato, quindi noi stasera parleremo invece delle iniziative promosse dalle Desiderande di Bari, e appunto in occasione del Bari Pride 2003, che organizzano una serie di iniziative gestite autonomamente al di fuori del programma ufficiale. Quindi ve lo leggo. Dunque, il venerdì 6 giugno ci sarà un incontro sui luoghi non comuni. Il tema sarà continuare a reesistere in luoghi lesbici separati, che mi sembra molto molto interessante e forse in qualche modo ci riguarda da vicino con quello, certo, che succede, certo, al Buon Pastore. Il giorno successivo, sabato 7 giugno, in collaborazione con il Circolo Arci Lesbica Mediterranea di Bari, ci sarà una festa dal titolo Lesbian Differ Dance. Dunque, qualche ulteriore informazione sull'incontro del venerdì 6 giugno, di cui appunto ricordo il titolo, Luoghi non comuni, continuare a reesistere in luoghi lesbici separati. Interverranno Jacqueline Julien di Bagdam Café di Tolosa, Giovanna Olivieri, una nostra vecchia conoscenza della Casa Internazionale delle Donne di Roma, e l'incontro si terrà presso Abu Suan, la strada Vallisa 67-68 a Bari, nel Borgo Antico, alle ore 17. L'ingresso è gratuito ed è naturalmente riservato alle sole donne. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, naturalmente potete contattare le Desiderande di Bari visitando il loro sito, ve lo diamo, www.desiderande.it. Allora, volevamo anche specificare bene, parlandovi di notizie un pochettino più specifiche rispetto alle due donne che interverranno. Per esempio, Jacqueline Julien è presidente dell'associazione Bagdam Café dalla sua creazione nel 1989. Femminista praticamente da quando è nata, è stata cofondatrice della Maison des Femmes de Toulouse nel 1976, è una scrittrice e una teorica, organizza i convegni internazionali di studi lesbici iniziati nel 2000 e una scuola lesbica iniziata nel 2002. Lei ama dire: siamo sempre in emergenza, lo dice spesso, ed è per questo motivo forse che si prodiga più che mai sulla diffusione delle nostre conquiste mentali e sulla trasmissione verso le nuove generazioni della nostra capacità di resistenza politica e simbolica. Dunque, Bagdam Café si trova a Tolosa, in Francia. Quasi 15 anni dopo l'apertura del famoso caffè separatista nella grande città di Tolosa, rimane mitico il nome di Bagdam, perché in Francia è stato il primo luogo pubblico, cioè affacciato sulla strada e non laggiù in fondo al cortile con ingresso a citofono. Dicevamo, il primo luogo pubblico che ha saputo diffondere, oltre al piacere dell'identificazione positiva, quello di una memoria viva. Infatti il collettivo ha innescato una vera corrente di legittimità politico-culturale lesbica in pieno cuore dell'heteropolis. L'associazione, rinominata Bagdam Space Lesbienne, organizza convegni internazionali di studi lesbici, concerti, inoltre organizza la Primavera Lesbica di Tolosa con film lesbici, conferenze e letture. E Giovanna Olivieri, chi non la conosce, noi naturalmente la conosciamo da vicinissimo, e dunque cosa dire di lei, la responsabile degli archivi lesbici italiani, dal 1985 milita nel CLI, il Collegamento Lesbiche Italiane, che ha la sede nel Centro Femminista Separatista, quindi con il CLR, milita ovviamente quindi nel Centro Femminista, e presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma, e si è occupata di organizzazione di eventi lesbici, molti dei quali in collaborazione con il CLR, settimane, seminari, convegni, insomma vacanze, mostre, e si occupa anche di divulgazione della cultura lesbica, presenta e pubblica libri, ha editato degli atti, inoltre si occupa della redazione della bollettina del CLI, tiene corsi di storia del lesbismo, presenta scrittrici e via dicendo, l'ultima appunto al Centro Femminista Separatista, Maria Rosa Cotrufelli, di cui abbiamo sentito la voce poco fa. Dunque, la Casa Internazionale delle Donne di Roma, ve lo ricordiamo, è ubicata in 4.000 metri quadrati in un ex convento del 600 a Trastevere, e è provvista oggi allo stato attuale di foresteria, ristorante, biblioteca, bar lesbico, palestra, sale per convegni, feste, servizi di consulenza e via dicendo, ed è il risultato di una lotta ventennale piuttosto tenace e forse per certi versi anche andata un po' a male, ma vabbè, questo è un altro argomento, lo affronteremo in un altro momento. Non apriamo questa porta, non apriamo questo baratro, e quindi è un crogiuolo, diciamo, di realtà e di associazioni femministe e lesbiche, e diciamo dovrebbe essere, tende ad essere, cerca di essere disperatamente un luogo autonomo e indipendente a livello economico, per dare visibilità e valore alle politiche delle donne e delle lesbiche. E sempre durante questo incontro le desiderande presenteranno il loro progetto di Lesbizio, una casa per lesbiche anziane, continuare a resistere in luoghi lesbici separati. La pratica politica di creare e mantenere nel tempo luoghi per lesbiche appartiene al gruppo delle desiderande da sempre. Il senso politico di luogo come contesto di costruzione identitaria deriva non solo da convinzioni teoriche, ma anche dalla influenza quotidiana e violenta che il tessuto sociale meridionale, in modo particolare, esercita sulla vita delle lesbiche. La mancanza di un luogo e di un contesto di riconoscimento viola l'immaginario, impedisce un progetto di per sé rispettoso della nostra storia e del nostro stile di vita. L'esistenza di luoghi lesbici, la stessa esperienza della loro creazione, è per le desiderande pratica di autorappresentazione e garanzia di continuità. L'incontro che propongono intende presentare il loro progetto di costruzione di una casa per lesbiche anziane e dare voce al racconto di lesbiche che hanno dato vita ad esperienze storiche a partire dalla pratica della costruzione di luoghi separati in Italia e in Francia. La loro iniziativa è indipendente ed autofinanziata ed è rivolta a tutte le lesbiche che nel giorno del Bari Pride vogliono confrontarsi insieme a loro su queste tematiche. Oh, e dunque, naturalmente, in attesa di poter accedere noi stessi al lesbizio, visto che purtroppo l'età avanza, cara Caterina, l'età avanza, tu lo sai, il babbionismo. Ma io gliel'ho detto, se mi mettono da parte una cameretta con vista sul mare, mi sono già prenotata. Perfetto, speriamo che sia una camera doppia, così vengo naturalmente con te. Va bene. Oh, dunque, in attesa di questo lieto evento, appunto, forse possiamo ricordare che le desiderande sono un'associazione lesbica separatista che opera da 11 anni, quindi insomma sono già vecchie di operato, collaudatissime, a Bari appunto, e diciamo la finalità principale è quella di aggregare e di collegare le lesbiche del sud, quindi di aprire spazi e momenti di visibilità tra le lesbiche appunto, quindi contribuendo diciamo a diffondere e a rafforzare l'identità e la cultura lesbica, quindi Forza Desiderande, che sono bravissime, sono bravissime. E soprattutto operano in un contesto sociale particolarmente complesso, difficile. Difficilissimo. Io, come buon augurio, forse ho scelto come sottofondo per leggere delle iniziative che si faranno a Bari un brano che ha un titolo significativo, infatti è Victory. Appunto. E leggiamo proprio quanto scrivono le desiderande sul progetto Lesbizio. Siamo partite dal desiderio di costruire una vecchiaia a nostra misura. Per fare questo abbiamo pensato di progettare il nostro Lesbizio, cioè il posto fisico che racchiuderà le nostre esperienze, in modo da lasciarlo a quelle che ci seguiranno. A loro spetterà il compito di conservarlo. Noi pensiamo che le lesbiche debbano patrimonializzare le proprie risorse creando un fondo autonomo per ogni progetto. Patrimonializzare significa non disperdere i nostri averi, ma destinarli alla costruzione di fondi di nostra fiducia che realizzino progetti in cui crediamo. Questa sarebbe una pratica per dare alla comunità lesbica una forza contrattuale in grado di reggere i costi di mercato. Per il Lesbizio pensiamo di adottare la forma legale della fondazione, perché facilita donazioni, contributi personali e vantaggi fiscali. Il Lesbizio deve essere una struttura in grado di sostenersi economicamente attraverso i contributi delle ospiti, magari con bassi affitti e costi contenuti per i servizi offerti. Inoltre pensiamo al Lesbizio anche come un luogo di lavoro per le lesbiche. A loro infatti sarà affidata l'assistenza e la gestione dei servizi della struttura. E il punto per noi fondamentale è la scelta dell'asse ereditario. Avere il privilegio e la libertà di lasciare i propri beni ad altre lesbiche senza essere legalmente obbligate a rispettare i vincoli di sangue. In questo modo si potrà garantire la continuità del progetto ed il suo futuro finanziario. E la prossima canzone che dedichiamo tutta quanta alle ragazze delle desiderande di Bari si intitola Sweet Baby, e il coordinamento lesbiche romane gliela dedica, ed è cantata da Macy Gray ed Erika Badu. Just the two of us, that we come this get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Bene, non ve ne andate, come di consueto noi rimarremo insieme fino alle 10, quindi abbiamo abbondanti 15 minuti per continuare a stare insieme. Ringraziamo sia io che Rosina, tutte coloro che ci hanno fatto i trillini. Mi dispiace dover ammettere che abbiamo parlato un po' troppo, quindi un articolo che era stato preparato sull'arresto dei due omosessuali nel Texas slitta alla prossima trasmissione. Dunque, a me hanno spesso detto che sono una che manda canzoni troppo romantiche, allora io ho trovato tra i miei dischi una canzone che sicuramente romantica non è. Adesso ve la 44 gatti? No. È un tipo di musica sicuramente rispettabilissima, però diciamo non è il mio genere. La polka di Danzica? No, adesso ve la faccio sentire. Me l'avete chiesta voi indirettamente. Se poi non vi piace, la sentite lo stesso. Ditemelo, che io vedrò bene di non mandare più canzoni di questo genere. Va bene, comunque è Gala che la canta, e il titolo è Keep the Secret. Io invece vi invito a non tenerlo questo segreto, ma non abbiate segreti, sì, sventolatevi ai quattro venti. Va bene, comunque Gala, eccola qua. Boy of 15, he knows everything, he dances with pain, he sees night. Dark angel, you know you're gonna grow old. You died for love, you'll give in to the bella, io devo riconoscere che è bella. Diciamo che quando una si avvicina all'età per andare proprio al lesbismo, diciamo che non è proprio l'ideale. Ecco, ormai io ho una certa età, cercate di capire. Mi sembra di capire dai trillini che invece piace questo genere di musica. Va bene, mi devo rinnovare. Va bene, va bene. E dunque non si capisce, Caterina, per quale motivo tu voglia punirci in questo modo, e poi so che ci punirei anche a seguire, insomma, con... Sì, faccio, come si dice, un colpo al cerchio e uno alla botte. Cioè ci riempi di botte, come si... Dunque, in realtà questa canzone si intitola Keep the Secret, io non, sì, non manterrò il segreto e dirò immediatamente che cosa vuoi propinarci a seguire. No, sveli, sì, questo segreto. Lo svendo questo segreto, che dici, Caterina, oppure me lo tengo per me? Va bene, va bene. Lo svendiamo? Lo svendi. Lo spendiamo, così hanno il tempo di seguire la pubblicità su un altro canale. Però aspetta, prima di svelare tutti i miei segreti, io volevo comunque ricordare il nostro appuntamento di giovedì per la seconda parte di Tipping the Velvet, del narrativo inglese molto carino, sottolineo molto carino, venite perché merita. E poi non potete perdere certo la sorpresa che abbiamo preparato, ormai a quest'ora mi si inceppa la R nel palato, faccio un macello, che abbiamo preparato per voi. Venite, anche perché sennò poi non sappiamo che farci di questa sorpresa se non venite. Beh, io una mezza idea ce l'avrei, comunque tu sai che non ci tiriamo mai indietro rispetto, no, a certe assolutamente cose. Assolutamente no, la bilancia poi ne soffrirà, però va bene. Cioè, ma noi l'abbiamo detto che domani è l'ultimo incontro di Les Bollywood per... Ah già, è vero, perché ci è sfuggito questo particolare. La sorpresa è legata al bisogno di pausa, di riflessione che il coordinamento Arci e il CLI vogliono prendersi, una pausa estiva, perché fare questa rassegna di Les Bollywood è stata comunque veramente molto molto pesante. Non sembra, ma è faticoso. Sì, non sembra, ma è faticoso. Aiuto, è partito anche il secondo brano. No, questo lo levo, dai, passate, me lo posso levare? Vi prego, non continuate a fare i trillini, sennò sono costretta a lasciarlo, dai. Fermatevi un attimo, li fate sull'altra canzone che voglio mettere, dai. Non li prendo mai, li continuano imperterrite. Aiuto. Allora, com'è che si dice quando una c'ha il potere in mano lo usa? Bene, faccio un'azione, facciamo di forza. Un colpo di mano, un'azione illegale. Cambio canzone, vi prego, c'ho pure un po' di mal di testa, non la reggo dentro la cuffia questa canzone. E questa è tutta un'altra storia, è Mariella Nava con la canzone, aspettate che prendo il disco perché non me lo ricordo, è Il nodo, la gabbia e il seme. Bene, io a questo punto esco di scena. Sì, sì, lo so che vuoi andare a fare, lo so. Ebbene sì. Slega in fretta il cappio, sciogli quel nodo. Ma c'è anche un altro motivo per il quale ho scelto Mariella Nava, lo sapevate che era pugliese? Sapevatelo. Sapevate. sangue già asciugato, è già troppa storia, guarda indietro, non è più il tempo, no, tutto il sudore insieme, gli ultimi nostri pugni e per ognuno. E proprio ora in diretta, anziché arrivare i trillini in radio, ci arrivano addirittura sui volgarissimi telefoni cellulari. Yes, monsieur. Ringraziamo quindi quella chiacchiella di Annalisa che si firma una fan fedele. Secondo me è una grandissima bugiarda, comunque la ringraziamo perché è sempre tanto gentile. Speriamo è di averla presto. È tanto onesta, pare. Ma pare. Allora un saluto ad Annalisa e anche un bacione. Sì, io volevo concludere questo fine trasmissione, come dire, un po' sui generis, siamo cotte, sia io che Rosina, approfittiamo delle pause musicali per fare degli sbadigli incredibili, ci si sta lussando la mandibola. Comunque, per non smentirmi, visto che sono stata accusata di essere romantica, allora vi metto un romantigume di quelli incredibili. Non so il titolo di questa canzone perché me la sono... Love Story. No, è una canzone spagnola molto molto bella, non so né chi la canta né chi è, né il titolo, comunque io ve la mando perché è una canzone bellissima. E sulle note di questa canzone misteriosa il coordinamento Lesbiche Romane vi dà appuntamento la settimana prossima, vi aspettiamo giovedì per la proiezione del film, aspettiamo anche tutti i vostri contributi, potete scriverceli al clrbp.it oppure al coordinamento Lesbiche Romane via San Francesco di Sales 1B. Oppure lasciandoci un messaggio nella nostra segreteria telefonica allo 06 68 64 201. Ciao a tutte e a martedì prossimo. ancora io e dove mi amore.